Dalle belle città, dal grande nemico, fuggimmo via su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, dentrammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. La giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, partigiani della Poltarda e Peschiera. Sulle strade del nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, i bianchi stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.